Amore traditore, amore traditore, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni più. No, no, tu non mi inganni più, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni più. Amore traditore, amore traditore, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni più, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni, non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni, mi inganni, tu non mi inganni, tu, tu non mi inganni, tu, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu. Non voglio più da te, né non voglio affami te, or voglio esservi tu, or voglio che servi tu. Non voglio più da te, né non voglio affami te, or catene, non voglio affanni pene, orgoglio e servitù, cordoglio, cordoglio e servitù, non voglio più catene, non voglio affanni pene, orgoglio e servitù, cordoglio e servitù. Amore traditore, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni più. No, no, tu non mi inganni più, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni più. Amore traditore, amore traditore, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni più, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni più. Amore traditore, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni, mi inganni, tu non mi inganni più, tu non mi inganni più, tu non mi inganni, tu non mi inganni, tu non mi inganni più.